vuoi venir a morire? A stornellare, porta del vino e metti di a sedere. Puntata numero 7 di Ratto di Campagna Topolino di Città, il programma di Radio Big World che tenta di gettare un ponte tra la provincia e la capitale, dato che prima o poi capitale ci toccherà diventarlo per ragioni di politica e di geopolitica che sono più grandi di noi. E allora tanto vale per noi campagnoli imparare a comportarsi, imparare a stare in città come un cittadino. E io che sono campagnolo, campagnolissimo, perché ho lasciato il trattore in seconda fila, mi tocca chiedere a qualcuno che ne sa più di me, a qualcuno che abita la capitale, a colei che, mentre noi qui in provincia ancora bruciavamo le streghe, lei aveva la minigonna e faceva la rivoluzione sessuale. Laura! Ciao Giorgio! Ascolta, ma hai lasciato il trattore in seconda fila, ma le scarpe te le sei pulite? Le scarpe sono fangose. Le scarpe c'ho ancora le zolle. E naturalmente in casa quel buon odore di orto è preferibile che ci sia. Laura. Ma sai cosa? Noi al liceo avevamo un ragazzo, compagno di classe, che veniva dalla campagna, no? Che suoi avevano un agriturismo che, insomma, oggi direi che tanto male non se la passava, però all'epoca lo prendevamo un po' in giro perché arrivava in classe con un po' di fango sotto i piedi. E allora, niente, già da lì si vedevano queste enormi differenze che tu declami. Dal fango sotto i piedi partiamo oggi per cercare di capire come ci si veste e qual è il modo di apparire a Firenze. Perché questo è importante, quantomeno per noi zoticoni, è importante perché i provinciali, quando arrivano a Firenze, anche se vestiti a super festa, si notano lontano un chilometro. E si nota lontano un chilometro perché a me mi notavano lontano un chilometro, anche due, diciamo, alla stazione di Pontassieve. Allora, Laura, il vestire in città e il vestire in campagna, o magari il modo di portare i vestiti, che cos'è che distingue il provinciale dal fiorentino? Io cito sempre mia nonna, che era veramente una miniera di saggezza, e poi appunto era di paese, quindi mi ha aperto un mondo, che diceva, quando mi regalava qualche cosa di più elegante: questo te lo do per rivestirti, per ricambiarti. Ecco, quindi l'abito della domenica, forse voi ce l'avete un po' questo concetto dell'abito da tutti i giorni e del vestito invece buono da mettere per le occasioni speciali, per rivestirti. Allora, se invece l'abito che mi regalava mia nonna lo mettevo per un giorno qualsiasi, lei quasi quasi si indispettiva, perché mi diceva: ma io questo te l'ho dato per ricambiarti. Insomma, non si dovevano mischiare le due cose. Mi confermi che c'è ancora questa differenziazione? La differenziazione è grandissima. Noi oggi lo chiamiamo l'abito da messa, e effettivamente il vestirsi in maniera un pochino più rifinita era una caratteristica tipica, almeno fino a 30 anni fa, di quelle famiglie che la domenica frequentavano la chiesa. E nelle cittadine o nei paesi c'erano anche ovviamente quelli che la domenica andavano alla casa del popolo, ma in realtà più piccole, tipo in campagna, e quando ero piccolino io ancora c'era gente che viveva in campagna, in chiesa ci andavano tutti, persino i più comunisti dei comunisti. La mia nonna no, invece, lei forse era fra i più comunisti dei comunisti. Ma l'abito buono però ci doveva essere sempre. Comunque, dicevamo che quando arriva uno di fuori vestito particolarmente bene, si nota, forse per un'eccessiva attenzione alla scarpa che faccia fondan con il pantalone, insomma. Quando arrivate voi dalla provincia siete veramente impeccabili, ve lo dico, nei locali. Poi invece fiorentino può essere anche vestito un pochino meno, con meno attenzione, sempre bene, però insomma, che poi voi lo sapete benissimo che ci sono dei locali dove c'è una selezione in base all'abbigliamento, no? Allora, se noi veniamo buttati fuori, a parte noi, io dico noi fiorentini, ma noi donne non veniamo mai buttate fuori in base all'abbigliamento. La donna chissà perché è sempre vestita bene. Invece il butta fuori ti può dire a te uomo, ma a volte anche casualmente, solo perché gli sta antipatico dalla faccia, no, tu non entri perché non hai un abbigliamento adeguato. Ecco, chi si è fatto una cinquantina di chilometri per venire in un locale fiorentino, questo non se lo può permettere. Quindi forse l'abbigliamento impeccabile di voi che venite in città è anche perché poi dopo vi dovete fare troppi chilometri per tornare indietro, allora non volete rischiare. Quindi ma sai che cosa? Aspetta, un giorno un ragazzo venne buttato fuori, ma era vestito benissimo, e forse solo c'erano problemi di spazio, allora il buttafuori se l'ha preso con lui, poverino, e gli disse, ma sono bellissimi i jeans, però sono jeans da giorno. Ecco, ancora io mi domando quale sia la differenza tra il jeans da giorno e il jeans da sera. E quello lì si sarà fatto dei complessi tremendi, cioè come chissà. Ho fatto a sbagliare vestito. Chissà. Quindi... però ecco, se abita in città, fa un giro dell'isolato, torna a casa, si mette un altro paio di pantaloni e ritorna. E voi invece non lo potete fare, no? E che ne tornate in campagna a testa bassa. Quindi siamo vestiti troppo bene e troppo ricercati, e è quello che ci frega. Insomma, a Firenze va di moda anche l'essere un po' sciamannati. Ma qualche cialtrone in giro lo vedi, perché no? Poi sai, ecco, distingui forse più che dall'abbigliamento in generale quello che viene dalla provincia, anziché il fiorentino, dalla marca di scarpe. Io non so perché, ci sono delle scarpe proprio che a Firenze non vengono messe, non vengono comprate, e invece le scarpe che vanno molto di moda in provincia, non so perché, guarda, questo è un mistero. Ci fai un esempio, per esempio? Guarda, che è pubblicità, ma vabbè, che se ne frega. Le Hogan di Diego Della Valle, che tra l'altro è anche il nostro patron della Fiorentina, a Firenze sono davvero poco usate. Mentre da noi spopolano. Sono comode, sono belle scarpe, insomma, a me non mi piacciono molto, ma insomma un paio ce n'ho anche. Sei fiorentina, per forza. Sono infatti, forse è questo. Però effettivamente sono comode, sono buone scarpe. Sarà che da voi è pieno di outlet, allora le comprate lì, che ne so. Però da noi veramente, guarda, fai un esperimento, vai in giro a Firenze, se vedi uno con le Hogan chiediti di dov'è, non è di Firenze. Ok, abbiamo capito come si fa a non farsi beccare dai fiorentini, basta una marca di scarpe. E parlando di moda e di marche e di produttori di marche di moda, Firenze con la moda è legatissima, non solo per la sua storia e per la sua storica sfilata o giornate della moda, che è Pitti, ma anche perché il centro è pieno di super boutique costosissime, e alcune di queste boutique sono fiorentine, fiorentinissime, tipo, mi viene in mente, Cavalli. I fiorentini in qualche modo sono legati alla moda, alle mode del momento, a quello che si mettono le celebrità, a quello che si mettono gli attori, oppure in qualche modo a Firenze è repubblica anche su questo. È repubblica anche su questo. No, è interessante osservare le vetrine di Via Tornabuoni, Cavalli e compagnia bella. Però almeno io, senti, vedo un vestito, un paio di scarpe da 1700 euro e dico, ma chi lo compra? Ma magari anche 1700 euro, 3700 euro. Quindi io penso che le boutique, le vetrine fiorentine siano più che altro preda di turisti, di russi per esempio, adesso sono molto, molto spendaccioni sulla moda, sulle scarpe, sui vestiti. Allora il fiorentino le guarda queste vetrine e dice, le commenta molto spesso in negativo, perché dai, ci sono dei prezzi, insomma. Poi ecco, su invece su quelle con i prezzi un po' più abbordabili, allora sì, ci teniamo, dai, anche a vestirci bene, ad avere dei bei vestiti, sì, ci teniamo, però ecco, non, escludiamo un attimo cavalli o roba di questo rango. Pitti è un altro capitolo, le manifestazioni di Pitti sono veramente interessanti, però credo più dal punto di vista sociale, sociologico e di costume, perché insomma sono vestiti abbastanza eccentrici. Allora vedi l'uomo con il papillon rosa, la camicia a righe, che è magari... buono per la provincia. Sì, forse sì, ma poi li vedi, no? questi modelli, dici, a lui gli sta bene, perché effettivamente c'è tutto poi uno studio dietro, non è che sono ridicoli, sono divertenti da vedere, anche eleganti per certi versi e, come ho detto prima, eccentrici. Poi dici, ma io me lo metterei mai questo? Ma no, assolutamente. Però è divertente uscire nei quei tre periodi l'anno in cui c'è Pitti, perché vedi tantissime persone vestite nei modi più assurdi, più strani, più divertenti, ganzi come diciamo noi, che affollano la città. Te pensa che una volta io uscii per Pitti, era martedì, quindi non era neppure un sabato o un venerdì, non riuscii a trovare un ristorante libero perché erano tutti pieni. Ma tutti vestiti con questa roba eccentrica nei abbastanza, abbastanza. E li riconosci, no? Lontano un miglio. E è divertente osservarli. Quindi, almeno per quanto mi riguarda, io Pitti la annovererei quasi più un appuntamento da osservare più che da imitare. E parlando di imitazioni, ovviamente Firenze, faro della Toscana, faro del Rinascimento e faro della moda, in qualche modo illumina di luce riflessa anche le altre città della Toscana. Tutto questo per dire che è una baggianata, per dire che ovvio che in altre città della Toscana, meno grandi di Firenze, ma che comunque hanno una grandissima dignità storica e in questo caso urbana, perché sono città che raggiungono, superano i 100.000 abitanti, c'è un modo differente di essere e di vestire. Laura, tu con occhi da fiorentina, guardando altre realtà della Toscana, noti delle differenze tra voi e loro? La città numero uno per attenzione alla moda è Arezzo, senza dubbio, me lo confermerai tu che vieni dalla provincia d'Arezzo, no? Allora, hai mai visto un aretino vestito male o senza un qualcosa di marca addosso? Ah, incredibile, loro conservano anche le borse delle boutique, tant'è che delle volte vanno a fare acquisti in una boutique solo per andare in giro con la borsa di quella boutique. Con la busta magari. Con la busta. Sai, la borsa. No, Arezzo, ecco, la mettiamo in cima alla classifica dei più modaioli. Firenze, anche per la legge dei grandi numeri, trovi un po' di tutto. E Siena? Che ne dici di Siena? Siena forse un po' più elegante, dai. È difficile che vedi uno vestito un po' così a caso a Siena. Mentre... c'è un nostro amico Rasta a Siena, che cosa ci faceva a Siena? Io lo domandavo sempre, ma sei sicuro di essere senese, vestito un po' così, col jeans sdrucito? E non ci incastrava niente, infatti. Non è il classico senese, è ordinato, è preciso e insomma non lascia niente al caso, si veste bene, dai, in generale. A Firenze puoi trovare, come ho detto prima, anche il cialtrone, Siena non lo trovi. Sai una cosa però, forse più che di differenze fra città e città, io parlerei di moda che segue una generazione, che poi è trasversale, no? Sì. Hai notato una nuova moda dei ragazzini, degli adolescenti oggi? Qual è? Sentiamo con gli occhi di città come i ragazzini si vestono oggi. Guarda, ho fatto veramente un'osservazione sia in città che in provincia e tutti, insomma, quando c'è una nuova moda abbastanza stupida da seguire, proprio prende tutti, perché questa nuova moda fra i ragazzini è andare in giro col polpaccio nudo. Cioè, può fare freddissimo, però, cioè magari c'hai il piumino d'oca, però c'hai un bel pezzo di carne viva che esce fuori fra il pantalone e il calzino a volte non c'è nemmeno, è un fantasmino all'inglese. Ma all'inglese, mi fa dire parolacce, dai. Ok. Alla strulla, ma perché cioè, quei giorni faceva veramente freddo, mi sono trovata davanti a una scuola superiore nell'ora di uscita e vedevo tutti questi ragazzini, magari cappello e sciarpa, però polpaccio nudo, ecco, vagliela a dire. Abbiamo dunque oggi imparato che il modo per nascondere la nostra provincialità e cercare di farci passare per cittadini un po' più rifiniti, alla fine è non comprare una certa marca di scarpe e invece andare con scarpe di altra foggia, che non siano quelle russe, appunto, che sia per uomini che per donne, che sono orrende anche per noi, non sono buone neanche per andare nell'orto. Laura, grazie dei tuoi preziosi consigli. Prego, scusate se c'è stato un po' il sottofondo, il rumore della mia bambina che mentre io parlavo con te si è provata due o tre golf, si è messa due o tre pantaloni e si è guardata allo specchio. Chissà, forse Pitti Bimbo le affascina. Ringraziamo gli ascoltatori di Radio Big World che ci hanno seguito fino a qui e vi aspettiamo alla prossima fiorentinata.